stallo che profumano di mondo, mani come burro, un sorriso oltre il tempo, piano tutto piano, al rallentatore, piano piano il giorno muore. Molti abbandonati in case di riposo, piano scende un sipario chiuso. Siamo niente, siamo solo un'eternità, gli anziani sono bambini di una certa età. Fragili orizzonti, pieni di ricordi, soli con se stessi, soli come sassi, notte dopo notte, le ore tutte uguali, si preparano per uscire, vorrebbero dei fiori. Ma andare è troppo lontano e restano su un divano, sognano un abbraccio, ricordano un uomo. Siamo niente, siamo solo un'eternità, gli anziani sono bambini di una certa età. Nei mondi ancestrali erano loro i più ascoltati. Oggi non c'è più spazio, siamo tutti abbandonati, eppure la loro memoria è una biblioteca, sono loro la nostra storia, una cantina che resta chiusa, un abat-jour che resta accesa, un calendario incollato alla porta, una vita lunga, a volte storta, piena di vita che dentro scoppia, piena di alberi senza corteccia. Siamo niente, siamo solo un'eternità, gli anziani sono bambini di una certa età. Occhi di cristallo, che seduire vuoi ancora tutto il mondo. Tu che giovane fosti regina, tu che hai regnato come una sovrana, la solitudine è una brutta bestia, nel tuo ballare, nella tua giostra, fatti vedere quanto sei bella, fatti abbracciare, mia dolce stella, lasciati ammirare che questo mondo ti ha fatto soffrire, che questo mondo vuole separare chi lo combatte con amore. Siamo niente, siamo solo un'eternità, gli anziani sono bambini di una certa età.